Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è dedicata così a un aspetto, a qualcosa di particolare, perché tra gli amici di Radio 24 e devo dire anche tra i miei personali c'è Franco Scaglia, ha un passato e un presente piuttosto interessanti, è presidente di Rai Cinema, del Teatro Stabile di Roma, questo fa parte del suo curriculum. Oggi potremmo definirlo uno scrittore di successo, l'ultimo libro Il Giardino di Dio, tra l'altro dedicato al Mediterraneo, è stato anche presente in questa radio. Ma al di là dei premi, al di là di tutto, Franco Scaglia è stato colpito da una forma singolare, rarissima di polmonite. E siccome siamo sempre in contatto, la cosa che ci ha detto è stata questa: la musica mi ha aiutato molto, grazie per la trasmissione, grazie per insomma tutto quello che la musica può fare. Allora semplicemente gli abbiamo chiesto: ma perché non trasformiamo la tua esperienza, caro Franco, in una trasmissione? Perché non facciamo conoscere a tutti quello che è in fondo il segreto della musica? E allora eccolo qui, è ancora convalescente, la sua voce è ancora affaticata, però ha voluto essere con noi questa sera proprio per raccontarci, per spiegarci le musiche, le scelte rigorosamente lui. Del resto, uomo che ha diretto la RAI, uomo che in fondo ha diretto teatri, sa scegliere anche le musiche giuste per poterci parlare. Buonasera Franco. Buonasera Armando, mi scuso per la voce, insomma è ancora un po' così, però... Ecco, ma la presentazione spero di non aver commesso errori o esagerazioni. La presentazione era come al solito affettuosissima e giusta. Grazie. Ecco, ma cos'è successo con questa forma di polmonite che ha colpito appunto i tuoi polmoni lì? Guarda, è una vicenda buffa, perché quando uno sta sempre bene, facendo cornea sono sempre stato bene, quando ti capita una grande tegola non te ne rendi conto. E all'improvviso a Roma ero tornato dal mare il 20 gennaio e non respiravo più. Mi hanno portato di corsa in clinica, mi hanno ricoverato in 3 secondi e sono uscito da poco. E alla fine, dopo esami, consulti, il professore che mi curava, il professor Darda, si è arrivato da me ridendo, dicendo: guardi che lei non fa lo scrittore ma fa il vaccaro, perché la sua polmonite si chiama polmonite del vaccaro. E lì le risate di tutti, io pure insomma stavo male e non si capisce come è venuta, perché una polmonite che colpisce i vaccari, rara forma di polmonite, bilaterale, complicatissima. Vabbè, quindi ho vissuto con 9 flebo al giorno, cambio del sangue con la terapia dell'ozono. Adesso ogni due giorni ritorno in clinica. Ecco, ma Franco, hai scelto delle musiche. La musica cos'è stata in questo periodo? Ma sai, quando stai immobile su una poltrona, in una stanza estranea, e in un mondo che uno veramente augura a nessuno di conoscere, perché anche se uno è trattato benissimo, sei fuori da tutto, alla fine l'unica vicinanza forte che mi aiutava anche i polmoni era proprio la musica, e tante cose che io, tanti pezzi che io ho amato nel mio passato, no? Perché ognuno di noi ha un suo piccolo patrimonio di amori, di amori, no? Che sono i più bizzarri, certo, che vanno dal classico all'opera, e tutto questo io me l'hanno riportato con delle cassette mia moglie. Io ascoltavo, cioè, nei momenti più in cui ero più triste. E allora molto semplicemente gli chiediamo: perché l'Aida? Perché una musica così, diciamo, solenne? Sai, tra l'altro c'è una cosa bellissima, perché tu hai trasmesso l'Aida diretta da Sinopoli. Sinopoli, come credo che tu lo sai benissimo, persone che lo conoscevano lo sanno, certo. Era contemporaneamente, oltre ad essere un grandissimo direttore, era un grande archeologo, certo. A casa sua a Roma io ho visto dei pezzi rarissimi, poi aveva a casa a Lipari, dove ugualmente aveva pezzi di grandissimo valore. E l'Aida è un punto di contatto a un certo punto tra Sinopoli e me, perché lui era un grande archeologo E io ho scritto romanzi molto legati all'archeologia. E l'Aida è entrata in questo mio luogo dell'anima da quando ho scritto il primo libro, diciamo un po' archeologico, mettiamola così. Sì, è molto trionfale l'Aida, però è una straordinaria favola che mi riporta al mondo che io amo di più. C'è l'Egitto, quell'Egitto fantastico che viene raccontato da Verdi, poi in realtà esiste. Pensa che alla fine degli anni Ottanta, sì, fine anni che io facevo l'inviato per il giornale radio, mi mandarono a fare un lungo reportage, ci stetti una settimana, su questa stranissima operazione bella, tra l'altro, che fece l'Arena di Verona a Luxor. Ci fecero l'Aida nei luoghi dell'Aida, dove si era praticamente svolta la vicenda, mettiamola così. Ecco, ma allora io chiedo, c'è anche un'altra opera di Verdi che hai chiesto, ed è Rigoletto. Ma perché Rigoletto? Che cosa ha preso Rigoletto del tuo cuore, della tua anima in quei momenti, diciamo così, di cura, in questi momenti che in fondo stai ancora superando? Perché Rigoletto è un uomo che soffre moltissimo e l'avevo un po' legato ai miei malesseri. È un uomo che soffre, che paga tutto, che viene dileggiato e offeso nel modo più forte. Io me lo sono sempre sentito vicino, cioè io sono diversissimo da Rigoletto, però la pietà e l'affetto nei confronti di questo buffone che viene massacrato da tutti è un'altra cosa che mi ha sempre, che ne so, fatto bene, penso, cioè non che le sue disgrazie mi hanno dato gioia, però Rigoletto l'ho sempre considerato un amico, ma questo fin da bambino, cioè l'Aida arriva dopo, certo. Rigoletto appartiene alla mia infanzia, che accompagna l'anima, io non so come definirla, mi sto rendendo conto poi, no? Quando ne abbiamo parlato sulle musiche, rendo conto che c'è sempre Verdi. C'è molto Verdi. E mi stavo facendo la domanda adesso, perché c'è Verdi e non c'è Puccini? Teoricamente in una situazione, chiamiamola di recupero salute complessa, uno dice, vabbè, Puccini è più morbido. E invece io sentivo questa forte pulsione per queste opere che mi hanno accompagnato in varie parti della mia vita. Cioè Rigoletto e Aida sono all'opposto, certo. Però ambedue mi hanno dato grande vicinanza, grande sollievo e, ecco, e mai tristezza. Questa è una bellissima cosa. Magari io dico un'eresia, ma ci sono, cioè Puccini è immenso, sai, c'è la solita diatriba Verdi Puccini, però in certi momenti Puccini mi rattrista, mentre Verdi no, quindi forse questa è anche la spiegazione. E qui avremo te la sto dando adesso. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con Franco Scaglia. Ricordo un po' del suo curriculum: presidente di Rai Cinema, presidente del Teatro Stabile di Roma, incarichi importanti in Rai, ma soprattutto lo ricordo come scrittore, Il Giardino di Dio è il suo ultimo libro, scrittore di anche con premi importanti. E perché Franco Scaglia è qua con noi questa sera? Lo ripetiamo se qualcuno si fosse messo in ascolto adesso. È stato colpito da una forma rarissima di polmonite, la cosiddetta polmonite del Vaccaro, anche se non ha mai esercitato questo mestiere, e questo lo ha costretto a rimanere oltre 2 mesi in clinica con cure intensive, con cure particolari, in questa solitudine, in questo dolore che in fondo le cure e la clinica e l'ospedale portano sempre con sé, la musica gli ha portato soccorso, gli ha dato un grande aiuto, gli ha fatto ritrovare alcune strade, diciamo così, che in qualche modo conducono verso una serenità che a volte si cerca un po' disperatamente in certi momenti. E allora Franco l'abbiamo semplicemente invitato proprio per raccontarci la sua esperienza, e lo sta facendo con le musiche che lui stesso ha scelto: una Ida, un Rigoletto, musiche di Verdi e forse lontane, diverse, ma in qualche modo rispondono a una domanda. Io non so se ho ben riassunto, Franco, e se poi desideri aggiungere qualcosa proprio a quello che ho detto, ma è un po' un'esperienza molto bella per la musica. Certo, è preferibile non prendere questa forma rara di polmonite, insomma, però dalla quale ormai stai uscendo, no? Sì, convalescenza un po' lunga, però ecco, io questo vorrei dire agli ascoltatori, se c'è qualcuno anche che non sta bene, ci sta sentendo, che la musica a me, cioè, mi ha aiutato nei momenti in cui avevo anche un po' di disperazione, mettiamola così. Certo. Mi ha dato una tale serenità e una tale forza, e soprattutto la possibilità di sognare. Quando stai male, sognare ti crea delle onde positive, perché ti fa viaggiare. Quindi io ho viaggiato in Egitto, ho viaggiato a lungo in Egitto, ma ho viaggiato anche nel mondo terribile di Rigoletto, stando vicino alla sua sofferenza, che sentivo vicino alla mia. Non è retorica, ti assicuro, ma mi ha proprio aiutato molto, e credo che sia, usando questa parola, sia profondamente e meravigliosamente terapeutica la musica, per chi non sta bene. Perché gli dà forza. Io ho avuto molta forza sentendo con le cuffie le musiche che poi ti ho detto, e tu con grande affetto le stai programmando. Certo, io sto ripercorrendo un po' le musiche di Franco, perché appunto desideravo che ne parlasse un po' tutti gli ascoltatori. È una trasmissione, ricordo, insolita, ma una trasmissione vera, perché molte volte ci sono persone che così affermano, magari in luoghi di potere, che con la cultura non si mangia, oppure che la musica è inutile. Io invece non sono d'accordo. La cultura è una grande ricchezza e aiuta anche a mangiare. E la musica magari ci porta soccorso, oltre che darci gioia, oltre che aiutarci a vivere. Insomma, non è qualcosa di inutile. Non so, Franco, se condividi con me queste... Assolutamente, cioè, è stata una parte della mia cura, quindi più di così. E momenti di gioia nei momenti miei più tristi. Ecco, Franco, tra le altre musiche che hai scelto c'è Mozart, il flauto magico, Zauberflöte, una opera, diciamo così, completamente diversa da quelle di Verdi, particolarmente carica di simboli, carica di misteri, carica di fascino. Ecco, mentre Verdi è sangue, è forza, è spirito, diciamo così, un po' della nostra terra, il flauto magico ci porta quasi in un'altra dimensione. Perché però il flauto Armando magico? È sempre una grande favola, Certo. Sono favole diversissime, favola coltissima, il flauto magico, favola barbarica, la Ida, però sono delle favole. Il flauto è un altro elemento di sogno e di viaggio. Tra l'altro, pensa, io vedevo anche televisione, stando immobilizzato, certo, e un canale classico di musica classica, e ho visto un paio di volte, chiamiamoli, il seguito del flauto magico scritto da Schikaneder, che era, certo, il librettista, che si chiama Il Labirinto, dove c'era predominante la Regina della Notte. Per dirtela, non è che musicalmente mi aveva particolarmente emozionato, però ecco, è una curiosità che volevo consegnare ai nostri ascoltatori. Ecco, Franco, possiamo aggiungere una piccola postilla magari a quanto ci hai già detto del flauto? Ah beh, certo. Cioè, il flauto rappresenta, ma è sempre rappresentato per me, tutte le opere di Mozart, il massimo della riflessione, della fantasia e della ricchezza musicale. E quindi è stato per me naturale chiedere mia moglie che mi preparasse la cassetta del flauto, più che del Don Giovanni. Don Giovanni mi avrebbe creato agitazione. L'opera inquietante. Sì, inquietantissima. Don Giovanni è un'opera veramente inquietante e quasi addirittura in certi momenti pericolosa. Invece il flauto ti dà un'immagine di tentativo di armonia. Allora, nel momento in cui uno sta male, corre verso l'armonia, non corre verso l'agitazione. È una riflessione banale, però è normale. Quindi l'armonia del flauto mi dava proprio gioia e pensi, il flauto lo ascoltavo prima di addormentarmi. Certo, aiuta insomma. Sì, proprio l'armonia, la serenità. Questo era un elemento forte. Ecco, poi nell'elenco che ci hai mandato c'è la quinta sinfonia di Beethoven, sì. Quella in do minore, quella che è molto celebre per quel papapapam, insomma, che è il destino che bussa, come dicono appunto taluni giornalisti quando la devono recensire, quando c'è una nuova esecuzione. Sì. Cosa succede con questa quinta sinfonia, Franco? Ecco, la quinta nel percorso, diciamo, della mia giornata da malato, era il momento della vibrazione, e mentre con il flauto io mi creavo tutto un grande letto di serenità pur stando a letto, la quinta prima mi dava la carica, quindi io passavo dalla carica forte alla serenità. Sai, non sono un critico musicale, mi esprimo in modo molto... Ma è bene che sia così. Ma ecco, mi dava la scossa. Cioè, ho bisogno in certi momenti della scossa. Avevo bisogno delle favole, che sono le opere che abbiamo sentito prima. La scossa me la dava la quinta, forte. Mi dava la carica, ecco. Sì, è vero. Ecco, ma io siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, posso sì. solo fare gli auguri nostri e di tutti gli ascoltatori, penso a Franco Scaglia, che si rimetta da questa terribile polmonite e che ritorni un po' così ad essere il Franco Scaglia di sempre, con Grazie. Tanta voce, con tanto fiato, insomma. Però ecco, ci ha fatto molto piacere ospitarti, Franco, per un semplice motivo, perché ci hai dato una lezione di coraggio, una lezione, diciamo così, di musica, di vita. Io ringrazio moltissimo voi e spero, ecco, che a qualche ascoltatore che non si trova, che non sta molto bene, questo gli abbia dato un minimo di sollievo, come ha dato sollievo a me fare il programma e riascoltare le musiche che mi hanno aiutato. Ecco. Bene, allora ringraziamo Franco Scaglia, ringraziamo voi cari ascoltatori, ringrazio poi anche tutti coloro che in qualche modo ci hanno aiutato a realizzare questa puntata, quindi Pietro in regia, eccetera, così. Do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21, un cordiale saluto da Armando Turno e da Franco.